effetto. Qua cerco di metafore che esprimono un concetto assoluto e perfetto. Un colpo diretto assestato al sistema dal profondo del ghetto spirituale, in cui voglio relegarci ad affogare in quel mare di capire in passato solo di quella morale. Sì, falso opportunista che usa la censura come arma di difesa e sparavista su quanti, credimi non tanti, rifiutano ogni forma di controllo messo in atto dai potenti, dai signori che controllano l'opinione, da quelli che correggono le bozze del copione chiamato informazione, in scena tutti i giorni sugli schermi di un'intera nazione. Questo è il veleno che ci vogliono inoculare, non esiste antidoto e la morte mentale, opponi resistenza, non farti plagiare, se non ti vuoi ridurre in uno stato terminale, nella stasi comatosi ti è incapace di pensare, preferisce lamentarsi se qualcosa gli va male, agire! E allora ciao a tutti e a tutte, ben trovati o benvenuti, che sia la prima volta che ci ascoltate o che ci trovate per caso nelle frequenze media all'1359, oppure che siate dei nostri più o meno affezionati, affezionate ascoltatori e ascoltatrici, ancora il benvenuto e il ben trovati. Questo è lo spazio radiofonico della stampa rassegnata su Radio Wombat, che raggiunge con la puntata di oggi la sua 61esima puntata. 61esima puntata che questa settimana dedicheremo più o meno per intero a una vicenda che va ad inserirsi in un solco chiaramente ben dissodato e ben profondo, che centrosinistra e centrodestra continuano a tracciare con particolare violenza e brutalità sulla nostra città e sulla nostra area metropolitana. È la vicenda sicurezza, che aggiunge e raggiunge con le notizie di oggi di cui andremo a dare lettura un ulteriore elemento di drammaticità, se così possiamo dire. C'è anche un aspetto per certi versi grottesco in tutto quello che leggeremo, e non casualmente leggeremo dalla Nazione, uno dei giornali che, a parte uno dei pochi che fanno ancora cronaca locale, e quindi uno dei giornali che, insomma, vuoi o non vuoi, prendiamo necessariamente in analisi e in considerazione nelle nostre trasmissioni, che per l'appunto, chiamandosi stampa rassegnata, hanno come, se non come obiettivo privilegiato, però indubbiamente come cornice e come elementi di spunto gli elementi di cronaca e il trattamento, il punto di vista che i giornali, insomma, gli danno. E quindi non solo perché La Nazione è uno dei giornali che riporta la cronaca locale, ma anche perché è una di quelle testate che, come sappiamo, giornali che arriva puntualmente nei bar, nei luoghi di ritrovo e di, diciamo, di socialità. La Nazione, questo suo ruolo di megafono delle politiche di sicurezza, del ragionamento continuo e permanente sulla sicurezza percepita dei cittadini, ne fa appunto un motivo di proprio orgoglio e di proprio vanto. Ma insomma, arriviamo direttamente a quello che volevamo in qualche modo aggiungere a questa tematica, che, come ripeto, anche da questi microfoni necessariamente è stata e verrà, è stata nel passato, viene tuttora e verrà necessariamente presa in analisi e in considerazione, cioè quella delle politiche di ordine pubblico e di sicurezza, ma insomma si raggiunge con oggi un elemento abbastanza importante che potrebbe avere dei risvolti davvero critici. Gli articoli che andrò a leggere, che praticamente è il doppio paginone della Nazione di giovedì 11 di aprile, e che vi leggerò per intero perché, insomma, in qualche modo diamo anche un minimo di merito al ruolo dei giornali e dei giornalisti, se ne hanno qualcuno, è anche quello di riportare in parte le notizie. Riportando la notizia magari ci permetteremo qualche puntualizzazione durante la lettura, ma in buona sostanza ci permetterà di ripercorrere quello che è perlomeno la sparata a giovedì 11 aprile, tenendo anche conto che nel momento stesso in cui stiamo registrando la trasmissione, cioè avvicinandosi al fine della settimana che prenderemo in analisi, già in qualche modo vengono un po' stemperati i toni, perché si parla di periodo di transizione, di periodo sperimentale, e quindi, diciamo, il contenuto delle notizie non cambia, il contenuto delle ordinanze e ovviamente anche il segno politico, tecnico-politico dei dispositivi che si vanno con questo a mettere in essere non cambiano, però cambia in qualche modo la diciamo, la tempistica, che comunque non è una vicenda da poco. Insomma, ci si dà evidentemente un periodo di tempo per provare, poi eventualmente si torna indietro, anche se crediamo che queste siamo un po' nel campo delle profezie che si autoavverano, per cui si fa la politica, ci si dice che ci sarà una sperimentazione, ma i risultati finali poi verranno manipolati e fatti tornare come si voleva, e quindi con molta probabilità ci prepareremo alla permanenza delle misure che vengono sperimentate. Però insomma, così è, e così la prendiamo, e così l'abbiamo detta. C'è ovviamente da tenere di conto tutto il gioco delle parti che sta nella campagna elettorale, che come più volte abbiamo detto per certi versi è permanente, perché insomma, quando non sono le europee sono le amministrative, quando non sono le amministrative sono le nazionali, quando non sono le nazionali sono le regionali, ma la campagna appunto mediatico-politica è permanente, quindi il dibattito che si va a sviluppare intorno anche a questa vicenda è anche legato a questo. Quindi Salvini, quindi Nardella, quindi il PD, quindi il centrodestra, quindi la destra populista, quindi la sinistra che la insegue sul terreno della sicurezza, e cose che abbiamo più volte detto, ma che in qualche modo vanno sempre ricordate, perché fanno da cornice, da di sfondo a quello che andremo a leggere. Ma insomma, ora ne abbiamo già dette e anticipate troppe, passiamo alle notizie, quelle insomma fresche e vere. Quindi dalla Nazione del giovedì 11 aprile, il doppio paginone che vado a leggere in ordine, dall'alto in basso, da sinistra a destra. Titolone: Salvini, guerra ai balordi, via dalle città. Spaccio, movida risse, ecco le aree off limits per chi ha già denunce specifiche. Il Viminale le definisce le ordinanze antibalordi di Firenze e Bologna, spiegando che la prefettura del capoluogo toscano ha disposto l'allontanamento da alcune aree della città per chi è stato denunciato per spaccio, percosse, rissa, lesioni personali, danneggiamento di beni e commercio abusivo su aree pubbliche. Questo, diciamo, sono io che parlo, insomma, fuori dall'articolo, penso lo abbiate capito, come un inciso sarebbero, li ripetiamo, i reati che, per i quali, se si è stati denunciati, si è in qualche modo interdetti da passare, transitare, permanere nelle aree off limits. Quindi abbiamo spaccio, percosse, rissa, lesioni personali, danneggiamento di beni e commercio abusivo su aree pubbliche. Analoga decisione era stata adottata a fine 2017 da Matteo Piantedosi, all'epoca prefetto del capoluogo emiliano e ora capo di gabinetto proprio del ministro dell'interno. Darò direttive affinché simili provvedimenti scattino in tutta Italia. Nessuna tolleranza per degrado e illegalità, annuncia il ministro Matteo Salvini. A Bologna i cosiddetti mini DASPO debuttarono per la zona del Parco della Montagnola. Da sempre al centro di polemiche per lo spaccio, il giardino pubblico a ridosso del centro storico attirò ancora di più l'attenzione dopo alcune aggressioni a troupe di Striscia la Notizia. Decine da allora sono state le applicazioni e in seguito, di concerto con il Comitato per l'Ordine Pubblico e con il comune guidato dal sindaco PD Virginio Merola, l'ordinanza è stata estesa anche alla zona universitaria e poi confermata dal prefetto Patrizia Impresa. Chi viene sorpreso a delinquere in una zona in cui è già stato arrestato o denunciato viene allontanato. Qui tra l'altro c'è anche una fake, perché chi viene sorpreso a delinquere in una zona in cui è già stato arrestato o denunciato viene allontanato. Non è propriamente così, perché non si viene allontanati se si è stati denunciati in quella zona, ma solo se si è stati denunciati. Quindi non c'è bisogno di essere stati denunciati in quella zona per non poter tornare in quella zona, basta essere semplicemente stati denunciati, quindi diciamo lo spettro delle persone coinvolte si allarga. Ma insomma, scusate la mia sottolineatura, ma appunto anche nel riportare le notizie a volte un'omissione, una parola più o una di meno cambia le cose. Se viola l'allontanamento sarà denunciato anche per questo. L'ordinanza fiorentina, appena firmata dal prefetto Laura Lega, di cui conosciamo un po' tutto, insomma il nome è un programma, ha l'obiettivo di garantire la massima sicurezza e la piena fruibilità del centro storico alla cittadinanza. in determinate zone della città, potenzia l'attività di contrasto già in atto contro lo spaccio di stupefacenti e i reati contro le persone, vietando lo stazionamento a persone dedite ad attività illegali e disponendone l'allontanamento. Anche qui, ancora una volta, c'è questo mistake, per mistake si dice così, boh, non lo so, scusate, insomma, diciamo una notizia in qualche modo resa male, perché persone dedite ad attività illegali e disponendone l'allontanamento, insomma, questo non è immediatamente l'obiettivo di questa ordinanza, perché chi è pescato in flagranza di un reato in qualunque tipo di situazione verrebbe o allontanato o denunciato o identificato o portato in caserma. Insomma, queste sono prassi di polizia che esistono da sempre. Qui la situazione è leggermente ma qualitativamente diversa, perché si impedisce eventualmente il transito o la permanenza. Quindi ancora una volta, insomma, c'è una piccola inesattezza, però proseguiamo a leggere perché ci sembra davvero interessante, anche perché la pagina, diciamo, nel tentativo di dire quello che si sta facendo e quello che si propone a Firenze è già stato fatto e ha già portato ottimi risultati, va avanti con un l'occhiello centrale della pagina, con l'articolo che si rivolge e guarda la situazione di Bologna. Rivoluzione, raffica di controlli, 105 arresti in 8 mesi, stretta in zona. Mini Daspo ai pusher, il modello Bologna. Così abbiamo ripulito il centro storico. Articolo sempre del solito giornale, sempre dello stesso giorno. Maestra, ma questo è un uovo di dinosauro? Dice la bimba con un involucro pieno di hashish in mano. Fine 2017, Bologna, anzi Montagnola, il principale parco del centro storico, citato da Stendhal, salotto buono per la borghesia di fine Ottocento, due secoli dopo in mano agli spacciatori, così spregiudicati da infilarsi anche dentro la scuola ospitata sulla collina. La svolta inizia quel pomeriggio, ormai 2 anni fa, si diceva. Matteo Piantedosi, ora capo di gabinetto del Ministero dell'Interno, era il prefetto di Bologna e lancia l'idea: divieto di stazionamento nell'area per chi ha commesso alcuni reati, ad esempio spaccio, ma anche commercio abusivo nel parco. Mini Daspo, per la cronaca, si chiamano così. In sintesi, hai spacciato in Montagnola e sei stato già pizzicato? Beh, lì non puoi più fermarti, nemmeno per sederti. Anche perché la consuetudine è tragica. Gli spacciatori vengono arrestati, poi giudicati per direttissima e liberati, ma la mattina seguente sono di nuovo lì, fra gli alberi, con eroina e fumo. Poi Piantedosi va a Roma. Arriva Patrizia Impresa in prefettura e insieme con il comune e le forze dell'ordine lo strumento viene esteso alla zona universitaria e a Piazza Verdi con un'altra ordinanza. Non solo, passano i mesi e in Montagnola vengono intensificati blitz e controlli. È una rivoluzione favorita dai Mini Daspo. Il parco dell'infamia è ora ripulito. E Bologna, per anni in fondo alle classifiche sulla sicurezza, si trova a fare scuola. Non che tutti i problemi siano stati risolti, anzi. Ma il cambio è netto. E ora il modello Bologna, approdato a Firenze con la zona rossa, potrebbe essere esteso a tutte le principali città italiane. Il ministro Matteo Salvini ha già scritto ai prefetti, ci mancherebbe altro. Patrizia Impresa è soddisfatta, abbiamo fatto un grande lavoro insieme con le forze dell'ordine, l'amministrazione comunale e tutti gli enti e le associazioni coinvolte, dice il prefetto. Per contrastare la criminalità e lo spaccio abbiamo, la pagina del giornale che avevo fotografato, mancano forse 4 o 5 lettere in fondo ad ogni rigo e quindi cerco di ricostruire a senso. Chiedo umilmente perdono, ma a volte il reperimento delle notizie ha anche questi problemi. Per contrastare la criminalità e lo spaccio abbiamo pensato che sarebbe stato utile avere uno strumento in più anche nella zona universitaria e nella piazza. Purtroppo spesso teatro di un teatro di non si sa quali nefandezze, così è stato. I pusher, infatti, che si trovavano e uscivano dal carcere era un amen, e subito dopo erano stati liberati, tornavano in piazza subito. Per mesi, peraltro, la procura di Bologna, con il capo Amato, aveva contestato agli spacciatori l'aggravante della vendita di droga davanti a scuole e altri luoghi sensibili, ma era il tribunale, erano sempre arrivate sconfitte. Quindi, insomma, diciamo che il tentativo di che ormai è già stato fatto, perché dei passaggi significativi li ho indubbiamente già letti ed è inutile sforzarsi e chiedervi la pazienza del mio tentativo di ricostruzione a fine pagina, perché appunto il tentativo dell'articolo di ricostruire una situazione tragica dove gli strumenti ordinari di cui la giustizia e gli apparati dello Stato sono già dotati sono insufficienti, perché insomma questi spacciatori vengono presi, vengono fermati, vengono processati anche magari per direttissima, ma subito dopo escono. Non si sa quale particolare impunità dovrebbero avere questi spacciatori per riuscire a uscire. Forse, e credo che qualunque lettore, veramente qualunque, compreso quello di destra o fascistoide, si sofferma nel tentativo di capire quello che gli viene detto, a prescindere, ripeto, dal punto di vista che lo caratterizza e che precede l'analisi, la lettura razionale del giornale, chiunque capisce che se una persona viene fermata, denunciata, processata per direttissima e immediatamente dopo rilasciata, evidentemente il reato compiuto non è poi così grave, perché se no questa si chiama impunità ed è notorio tanto alle persone di destra quanto a quelle di sinistra, quanto a quelle che si considerano, come a volte viene detto, post-ideologiche, che questa condizione si chiamerebbe immunità o impunità, e ne godono notoriamente solo i politici o gli imprenditori o persone che contano particolarmente. Tra queste spesso ci sono anche esponenti delle forze dell'ordine, ma l'essere esponenti delle forze dell'ordine non basta di per sé, perché come ci insegnano alcune vicende bisogna in qualche modo anche essere uno molto molto molto fedeli, due, appunto, essere all'interno di un organigramma formale o informale che sia ben collocati, perché quando ci si discosta anche agenti delle forze dell'ordine, come ci sono moltissimi casi dai quali lo potremmo in qualche modo desumere, uno tra tutti molto eclatante è la fine che lo Stato ha fatto fare ad uno dei suoi servi più fedeli e più utili in una certa fase storica, Mario Placanica, quello che è stato accusato, diciamo, di aver sparato il colpo in aria dal defender dei carabinieri durante le giornate di Genova 2001, che poi tale colpo sparato in aria per disperdere i manifestanti avrebbe colpito un sasso, questo colpo è stato deviato, è entrato nella testa di Carlo Giuliani e da lì tutta la vicenda. Quindi Mario Placanica, che a un certo punto ha avuto dei problemi, probabilmente anche dei rimorsi, chi lo sa fino a che punto onesti, o forse ha temuto che lo volessero strumentalizzare ancora più di così, insomma ha cercato di dire qualcosa che non fosse così funzionale a questo tipo di verità e ha fatto davvero una brutta fine. Chi vuole, insomma, se è stato incuriosito dalle mie parole, vada a cercare quello che è successo a Mario Placanica o a molti altri agenti delle forze dell'ordine, carabinieri o polizia, che insomma, ecco, era per dire che la divisa di per sé non basta. Quindi quest'impunità di cui in qualche modo sulla quale si ricama e della quale si vorrebbe dare l'immagine che sono dalla quale sono coperti gli spacciatori è evidentemente falsa. Se qualcuno viene fermato o veniva fermato nella zona della Montagnola o da qualunque altra parte e poi dopo un processo per direttissima viene immediatamente rilasciato, evidentemente è perché i reati che gli sono stati attribuiti non sono tali da comportare o implicare una detenzione per lunghi periodi. Quindi insomma qui siamo evidentemente nell'ambito e nel campo del tentativo di costruire il mostro e sbatterlo in prima pagina. Quindi il giardino della Montagnola descritto come una tragedia, ma che richiede quindi l'utilizzo di forme repressive e contenitive, coercitive e preventive diverse dagli strumenti ordinari dei quali gli apparati non solo di polizia ma anche dello Stato tutto sono dotati, è evidentemente insomma una favola che poi si sconfessa da sola, perché già nell'articolo si dice non che tutti i problemi siano stati risolti, anzi anzi. Quindi già questa frase è clamorosa, perché appunto l'articolo nell'Economia delle due pagine di giornale della Nazione vorrebbe essere, diciamo, la dimostrazione con l'esempio che questa cosa funziona, e invece l'articolo per sua stessa ammissione ci dice che la politica di zona rossa, di istituzione di una zona rossa anti-balordi, per recuperare il gergo che viene utilizzato da Salvini e dalle prefetture, non ha funzionato non solo nel risolvere il problema della montagnola, ma anzi ha disperso ed esteso quel tipo di problematica ad altre zone della città, che infatti subito dopo sono state interessate da altri provvedimenti. Quindi praticamente con questo si dà inizio ad un effetto spirale, un domino a spirale, che chissà comincia con alcune zone della città e chissà dove va a finire, ammesso che insomma finisca mai. Molto più probabilmente tutto questo finisce laddove non c'è più interesse a che si mantenga pulita l'immagine e il decoro urbano. Sappiamo con una certa certezza, perché lo possiamo affermare, chi vive le città lo sa, che ci sono ovviamente zone nelle quali l'idea del decoro e le politiche antidegrado raggiungono livelli ossessivi e forsennati. Certamente il centro di Firenze è uno di questi, e poi ci sono zone nelle quali invece non ci si interessa assolutamente di nulla, e nelle quali appunto, proprio per la mancanza anche di attenzione rispetto a questi temi, in un contesto sociale nel quale però si continua a produrre una narrazione tossica spaventosamente capillare e penetrante per i temi dell'ordine pubblico e della sicurezza, la presenza di polizia, che non c'è in zone periferiche o considerate marginali rispetto a determinati asset urbani, quali per esempio la presenza o meno dei flussi turistici, poi produce fenomeni di insicurezza percepita, che danno poi origine a comitatismo securitario, una forte richiesta di polizia nei quartieri, una forte tendenza dei cittadini ad auto-organizzarsi anche intorno a queste tematiche, e quindi sono tutti fenomeni che sono noti e che nelle nostre cronache insomma sono tornati più volte. Questo era un po' quello che ci voleva dire l'articolo La Nazione di oggi, sulla prima pagina. Io a questo punto, per spezzare un po' il discorso e di interrompere questo mio lungo flusso di parole che rischia di stancare, andrei con una prima pausa musicale che sarà più o meno a tema, per poi riprendere con l'altra pagina della Nazione, per poi lasciarvi alle sorpresine finali. Io sono il numero zero, facce diffidenti quando passo lo straniero, in sclero, teso vero, testo scuro, picchio la mia testa contro il muro, sono io l'amico di nessuno e stai sicuro, resto fuori dalla moda e dallo stadio, fuori dai partiti, e puoi giurarci io non sono l'italiano medio, ma un cane senza museruola, la NE, la doppia FA, passa parola, Cico canta che ti passa, ma non mi passa più, testa bassa, la repressione mi butta giù, schiaccia, quando lo sbirro mi dai pugni nella faccia, per me lo Stato è solo stato di minaccia, quando vedo il tunisino all'angolo che spaccia, la nera presa a schiaffi dal magnaccia, io so che è tutto made in Italy, perciò non chiedermi se canto Forza Italia o no, no, no, no. È la mia posizione, è di straniero nella mia nazione. Lo straniero e lo guardate male, e ogni singolo secondo la tensione sale, e sangue misto e non rispetta più il confine, viene da dove era stato cacciato fuori come un cane, ora non ci sto, non ci credo e non ne voglio più, solo disprezzo per lo Stato e le divise blu, schivo come Neffa, a zero grado di fiducia. Quando la terra brucia, allarme rosso per le strade, non sei più sicuro, tu stavi chiuso in casa ed è crollato il muro, quindi adesso è tutto pronto per lo scontro, con chi viene da fuori e non ci sta più dentro, quello che mi è andato da quando sono nato l'ho pagato, mi ho visto ogni due anni una strage di Stato, è un rompicapo, ma dubbi sui mandanti non ne ho, sono lo straniero, questo è quel che so, e non è no, è la mia posizione. bambino, la gente nella classe mi chiamava marocchino, terrone, muto, torna un po' da dove sei venuto, e questa è la prima roba che ho imparato in assoluto. La seconda è che sei fatto negli stati in cui ti siedi, quando sento la pressione dalla testa ai piedi, la situazione per me non cambia, era merda e resta merda. Cani della strada, razza bastarda, alla sbarra, sotto accuse ed ogni giorno c'è un buon motivo, e la giuria ha già detto il mio verdetto è negativo. Straniero nella mia nazione, perché qualcuno vuol metter fine alle storie di un guaglione. La tensione in strada sale a mille, vivo questa situazione sopra la mia pelle. Giorno dopo giorno, notte dopo notte resto allerta, guardo le mie spalle, anche se la strada è deserta. Stesso film, stessa storia, ne fa già salvato quindi resta in memoria. E un guaglione mette a fuoco il suo pensiero, resto fuori perché io sono lo straniero. E no, è la mia posizione, è di straniero nella mia nazione. E no, è no, è la mia posizione, è di straniero nella mia nazione. E no, è no, è la mia posizione, è di straniero nella mia nazione. E no, è no, è la mia posizione, è di straniero nella mia nazione. E no, è no, è la mia posizione, è di straniero nella mia nazione. E no, è no, è la mia posizione, è di straniero nella mia nazione. E no, è no, è la mia posizione, è di straniero nella mia nazione. E no, è no, è la mia posizione, è di straniero nella mia nazione. E no, è no. Eccoci rientrati in voce, 1359, questo è Radio Wombat, siete sullo spazio radiofonico della stampa rassegnata, giunta alla sua 61esima puntata. Per chi si fosse collegato adesso, stavamo parlando, dando lettura di due importanti pagine della Nazione di giovedì 11 aprile, di quello che sta succedendo con l'istituzione, sperimentale o meno che sia, delle zone rosse antidegrado o dell'ordinanza antibalordi, così come l'ha descritta Matteo Salvini. Ne abbiamo già un po' dato lettura con la prima pagina del giornale della Nazione, ora vorremmo passare alla seconda per poi, lo anticipo adesso, dare la parola agli operatori e alle operatrici della CAT, della cooperativa CAT, che appunto proprio perché intorno a questi temi uno degli elementi più ricorrenti e che maggiormente vengono agitati nel tentativo di terrorizzare la popolazione è il fenomeno dello spaccio, fenomeno dello spaccio che poi va insomma in qualche modo a creare una categoria ampia e che piglia un po' tutto, quindi con spaccio si intende anche il degrado, con il degrado si intende anche il consumo, con il consumo si collega ad altre tipologie di comportamento, di classi sociali pericolose, quindi si creano questi enormi, grandi e difficilmente districabili buglioni dietro ai quali insomma si nascondono moltissimi fenomeni diversi che invece con una certa attenzione, con una certa analisi e anche con una certa competenza sarebbe interessante e assolutamente necessario smontare. Proprio per fare questo abbiamo dato la parola e la daremo in fondo alla trasmissione a una serie di interventi credo molto interessanti che ci dicono delle difficoltà, dei problemi e delle ripercussioni che l'istituzione di queste zone rosse e che più in generale le politiche di sicurezza e antidegrado hanno su quello che è l'universo variegato, sicuramente variegato e composito dei consumatori di sostanze stupefacenti, tra i quali universo all'interno del quale si assiste a un ritorno molto forte dell'eroina che in una dimensione di frammentazione urbana, di società come insomma molta sociologia la sta definendo di società liquida con pochi punti di riferimento, con scarsissimi legami solidali e insomma con molto sospetto nei quartieri e anche nelle zone diciamo del centro, produce poi fenomeni di vero e proprio isolamento e che portano a situazioni di grave pericolo anche igienico-sanitario per gli stessi consumatori abituali di sostanze stupefacenti. Ma senza che io faccia più di così quello che non è in qualche modo mia specifica competenza, l'ho solo anticipato per poi lasciare la parola a questa serie di interventi degli operatori e delle operatrici che ci parleranno di tutti questi interessantissimi temi, oltre a farci scoprire che la stessa politica di cui gli articoli della Nazione parlano di Firenze e di Bologna, si scopre che è in qualche modo stata già attuata a Prato per quanto riguarda appunto le sostanze stupefacenti. Torno sul giornale a continuare a leggere quello che è l'articolo, il secondo paginone della Nazione, con tanto di cartina, mappa, perché le infografiche per la Nazione sono veramente un must e che si sfoggia e si sfodera sempre nelle occasioni più importanti, e questa di sicuro lo è. Che ci fa vedere la Firenze divisa per quartieri e diciamo il problema per ogni quartiere. Quindi abbiamo l'isolotto Legnaia con lo spaccio e la foto di un fermo, ovviamente di una persona insomma, diciamo dalla pelle scura, non diciamo nemmeno straniera o meno, perché non possiamo dirlo dal semplice colore della pelle, visto che ci sono anche a tutte le ragioni, a tutti gli effetti, cittadini con la pelle nera che sia, insomma due carabinieri che fanno questo fermo, spaccio, cascine. Poi abbiamo l'immagine sul centro storico con tanto di piccole riproduzioni dei monumenti, spaccio, Santo Spirito. Poi abbiamo il quartiere di Santa Croce, movida molesta, con un'immagine non si sa bene di che, un fermo di polizia, sembrerebbe la zona di Sant'Ambrogio. E poi abbiamo invece più in basso nel quartiere Gavinana Galluzzo, abusivismo commerciale, piazzale Michelangelo. Poi abbiamo l'accattonaggio nel centro storico e l'abusivismo commerciale ancora al Duomo. Come insomma in un grande gioco di ruolo, ognuno sceglie la sua area di competenza e queste sono i problemi principali. Insomma, l'avevo un po' anticipato, le infografiche sono sempre state una grande passione della Nazione. Firenze si blinda, vado all'articolo, zone rosse antidegrado. Il prefetto, 17 luoghi vietati ai delinquenti. Più sicurezza per turisti e commercianti. Giustamente tutti quegli atti gli importa una sega, insomma l'importante sono turisti e commercianti, questa è la città. Scusate, ho fatto un errore, ho cliccato il tasto sbagliato, perdo 2 secondi del vostro tempo per ritornare alla pagina giusta, eccoci, ci siamo. Una zona rossa off limits per chi ha violato la legge o le regole. Un'ordinanza firmata dal prefetto di Firenze Laura Lega disegna per la prima volta il perimetro di una fetta di città nella quale non sarà consentito stazionare a chiunque abbia sulle spalle denunce per spaccio di droga, per reati contro la persona come risse, lesioni e percosse, ma anche per danneggiamento. Ma non solo, il cartellino rosso è previsto anche per i venditori abusivi, sempre purché siano già stati denunciati in passato, che affollano il salotto buono cittadino, ma anche il dedalo di strade e stradine appena fuori dal centro. Sì, perché l'idea è quella di una complessiva messa in sicurezza, quindi un arginare e tenere sotto controllo tutto ciò che è illegalità, precisa a questo proposito il prefetto Lega. L'ordinanza antibalordi, come l'ha definita applaudendo all'iniziativa il ministro degli interni Matteo Salvini, individua 17 luoghi, ovvero le strade, le piazze e i parchi fiorentini, dove la percezione della sicurezza non è tale da consentire ai residenti, ai turisti e a chi vi svolge la propria attività lavorativa di fruirne al massimo e liberamente. Il vade retro denunciati va dal Parco delle Cascine alle vie intorno al mercato di San Lorenzo, dalla stazione centrale a una strada simbolo della Movida come via De Benci, fino alla zona monumentale e fieristica della Fortezza d'Abbasso a molte altre. Sono aree urbane, come sottolinea il provvedimento prefettizio, interessate da flussi turistici, dalla presenza di istituti scolastici e universitari, complessi monumentali, museali e luoghi della cultura di rilevanza mondiale, esercizi ricettivi, ristorativi e commerciali. Ecco, sembra molto più veritiero, insomma, piuttosto che mettere in mezzo le scuole o la cultura. Tanti luoghi diversi fra loro, ma accomunati dall'essere fisiologicamente più esposti al degrado e all'illegalità. Ecco, sono fisiologicamente più esposti al degrado e all'illegalità. Il perché non si sa, però sono luoghi fisiologicamente tali. Ecco allora la novità. Dalla neonata zona rossa, le forze dell'ordine nei prossimi 3 mesi, tanto varrà l'ordinanza, salvo proroghe, potranno far allontanare tutti i soggetti potenzialmente pericolosi. Basterà? Come deterrente l'ordinanza prevede che qualora coloro che vengano allontanati si ripresentino, scatterà un'ulteriore denuncia nei loro confronti per inosservanza ai provvedimenti dell'autorità. Firenze è una città sicura, puntualizza il prefetto Laura Lega. Il nostro obiettivo è rafforzare e consolidare l'azione già messa in atto dalle forze di polizia e dalla municipale, che negli ultimi mesi hanno incrementato i servizi di prevenzione e controllo. Con questa ordinanza non vogliamo certo impedire che la gente circoli liberamente, ma rendere più difficile il radicamento di fenomeni di illegalità e degrado. Semplice come l'uovo di Colombo, ma tutt'altro che scontato. Tanto che il titolare del Viminale, Salvini, ha subito rilanciato l'intenzione di dare direttive affinché simili provvedimenti scattino in tutta Italia. Insomma, si è già letto. È un provvedimento senz'altro utile, fa eco, non senza polemica, il sindaco Dario Nardella, ricordando che il provvedimento utilizza le norme del decreto Minniti sul DASPO, poi modificate dai decreti successivi. Il provvedimento rafforza l'azione che le forze dell'ordine stanno svolgendo nel nostro territorio, nonostante il fatto che siano sotto organico e siamo in attesa di agenti che devono venire da Roma come promesso. Quindi, ecco, Nardella, giustamente, per chi avesse in caso ancora qualche dubbio da fugare, non è assolutamente contrario, ma anzi, direi, dal suo punto di vista, anche in modo assolutamente a ragione, rivendica il fatto che quest'ordinanza emessa, fatta dalla prefetta Laura Lega di Firenze, muove le sue mosse e le può muovere proprio a partire dal decreto Minniti. Decreto Minniti, del quale più volte abbiamo discusso, di questa misura dei DASPO, del DASPO urbano, che colpisce certamente dalle categorie, diciamo, dai politici, cioè coloro che insomma vengono a contatto, vengono colpiti da misure repressive per la propria azione cosciente e deliberata, e anche categorie invece che non perché non siano atteggiamenti o comportamenti politici, ma il cui obiettivo probabilmente non è quello della, diciamo, della distruzione cosciente o dell'attacco cosciente al sistema, ma i cui comportamenti sono piuttosto legati a forme, diciamo, di guadagno, di interesse personale, di ribellismo che ha, diciamo, una minore aspettativa, un minore afflato collettivo, se così possiamo dire. Quindi, insomma, Nardella ha rivendicato la paternità, se vogliamo, di questo nuovo strumento, di questa nuova perimetrazione possibile e definizione di aree off limits, come giustamente, insomma, il centro-sinistra non solo non ha niente a che invidiare alla destra in tema di ordine pubblico e sicurezza, ma ancora una volta forse ne costituisce la avanguardia più cosciente. Ricordiamo anche, per esempio, che l'articolo precedente che abbiamo letto prima della pausa musicale, che metteva in luce le virtù della politica delle zone rosse alla zona della Montagnola a Bologna, si parlasse appunto di Bologna, ma è una Bologna nella quale l'apripista di tutta questa roba qua non è certo i governi o le amministrazioni di centrodestra, ma le amministrazioni di centrosinistra, addirittura quelle che nei primi anni del 2000, tra il 2004, 2005, 2009, 2010, sono state in mano a un uomo come Sergio Sergio Cofferati, il sindaco sceriffo di Bologna, che per l'appunto inaugurò la stagione dei sindaci sceriffi, che a colpi di ordinanze, date anche nuovi poteri in fatto di autonomie alle amministrazioni locali, aveva appunto inaugurato quella stagione. Stagione che in poco arrivò, come spesso succede, valicando l'Appennino, agevolando e diciamo scivolando più facilmente su una storia politica comune, che è quella del vecchio PC, che poi è transitato con il PDS, poi IDS e poi l'attuale PD, che dall'Emilia alla Toscana, valicando appunto l'Appennino, non ci mettono poi molto. Quella stagione di sindaci sceriffi arrivò immediatamente a Firenze, nella quale ricorderemo e ricordiamo sempre quello che alcuni writers e una campagna sociale battente aveva stigmatizzato come Cioni ti odia. Quindi Graziano Cioni, il sindaco, Graziano Cioni con la sua rete di collaboratori, e dall'altra parte il sindaco Domenici con l'ordinanza contro i lavavetri, che certamente aveva messo ancora una volta Firenze, Bologna e il centro-sinistra all'avanguardia nella, non tanto nella guerra alla povertà, cosa che diciamo da manuale di storia o di filosofia politica o di politologia potrebbe o dovrebbe contraddistinguere la sinistra, ma di vera e propria guerra ai poveri, perché appunto si andava a colpire i lavavetri, mentre a Bologna si colpivano i disgraziati, come oggi qui vengono colpiti i balordi. Certamente tutta questa, diciamo, materia molto complicata, della quale certamente, come più volte detto e in modo insomma imprescindibile, non si può fare a meno di notare come il racconto, la narrazione mediatica metta insieme tutta una serie di fenomeni anche disparati e diversi l'uno dall'altro, però insomma apre a una marea di riflessioni, chiaramente dal punto di vista sia giuridico, della costituzionalità di cose come queste, avrà e può avere delle ricadute pazzesche in termini anche dell'organizzazione della vita quotidiana delle persone. Tra i problemi che credo vada a porre e chiama fortemente in causa c'è proprio quello dello spaccio, perché più volte anche negli articoli che ho voluto leggere per intero per dare la dimensione di quello che è il racconto giornalistico, c'è proprio la questione dello spaccio. La questione dello spaccio, che torno a dire, è sempre ben mescolata a quella del consumo, e intorno alla quale c'è tutto un universo di comportamenti, di persone coinvolte, di informazioni che invece non circolano e che crediamo con assoluta urgenza e importanza sia necessario far circolare. E abbiamo una serie di interventi degli operatori e delle operatrici della CAT. Quindi con questo diamo la parola a loro. È una serie di interventi apparentemente disorganici, perché cambiano le voci e perché non ci sarò io ad introdurli. Il tema, ascoltateli, i temi sono assolutamente in sintonia con quello di cui abbiamo parlato, con un focus particolare, ripeto, alla questione delle sostanze stupefacenti, dei consumatori, dei loro diritti, delle difficoltà di ricostruire o costruire da zero reti e tessuti solidali all'interno di città che, sotto i colpi delle politiche antidegrado, ci stanno veramente schiacciando. Quindi a loro la parola, e con voi ascoltatori e ascoltatrici di Radio Wombat un salutone, pugni chiusi, a risentirci per la prossima settimana. Ciao! Recentemente, sentendo le notizie le nuove iniziative sulla sicurezza urbana del Comune di Firenze, non solo, cioè quella del DASPO urbano, delle zone rosse, non c'è come d'altro che essere sempre più preoccupati, perché l'idea della città sta diventando sempre un'idea in cui il bene pubblico, lo spazio pubblico, diventa sempre più sempre meno importante. Ma c'è da essere preoccupati anche perché questo ha serie conseguenze sul piano della salute pubblica. Vi faccio un esempio. Attualmente, negli ultimi settimane, siamo di fronte a un numero alto, elevato e in crescita di morti da overdose da eroina. Probabilmente la metà, anche più, di questi casi, secondo GeoVerdos, che è un sito che monitorizza queste cose, avviene in solitudine, in luoghi nascosti, perché di fatto questo è anche una conseguenza dello stile di consumo, ma anche del fatto che c'è sempre più bisogno di nascondersi. Ecco, io penso che queste nuove disposizioni che limitano la possibilità di, ad esempio, avvicinarsi, essere solidali fra consumatori, fra tossicodipendenti, aumenteranno il numero di morti per overdose. Quindi questo è un esempio sulla salute pubblica, cioè il fatto che politiche che limitano la circolazione, che limitano la libertà di muoversi, ma anche di soccorrersi, essere vicini l'un l'altro all'interno di un'idea della città in cui il bene pubblico comunque dovrebbe essere prevalente, sicuramente aumenta l'insicurezza delle persone, qualsiasi, non soltanto i tossicodipendenti, di essere aiutati dagli altri, di non essere prima guardati con sospetto prima di essere aiutati. Questa è una dimensione molto importante e anche molto critica di fronte allo scenario che ci viene posto di fronte. L'idea della zonizzazione è di fatto un'idea in se stessa molto pericolosa, perché di fatto in qualche modo privatizza degli spazi urbani che per loro definizione dovrebbero sempre rimanere pubblici e quindi essere appunto beni pubblici. Li specializza, li privatizza, ma se anche nell'idea della specializzazione ci potrebbe essere qualcosa di fattibile, di positivo, questa non può essere determinata o condotta attraverso le proibizioni, la repressione e quindi lo spostamento di persone in zone della città dedicate semplicemente con la minaccia di non poter stare in altre zone. Devono esserci altre leve, altre chiavi che possono anche poter far vivere degli spazi diversi della città, rivivere, ricostruire. Però questa è una logica che non si fa certamente con le zone rosse, né tantomeno con tutto quello che di peggio può succedere dalle zone rosse verso chi ha fatto un reato, per arrivare poi, come nelle sperimentazioni del Nord, a pensare che si fanno le zone rosse per i richiedenti asilo. Buongiorno, io sono Sara, lavoro come operatrice della riduzione del danno, e dei rischi a Firenze, e il mio intervento però è per parlare delle iniziative portate avanti da ITARD. ITARD è una rete di persone che consumano sostanze e di operatori sociali che da questo gennaio è partito con una campagna che si chiama Mai senza Naloxone, perché si ritiene che a questo punto il problema delle overdose non sia solo un problema che deve riguardare i consumatori di sostanze e gli operatori, ma soprattutto l'intera comunità civile, l'intera società civile. Per questo motivo, con questa campagna, che avrà 5 tappe, di cui 2 ci sono già state, il 17 gennaio a Firenze, il 27 marzo a Perugia, la prossima sarà a Milano, dove c'è la realtà di Rogoredo che nell'ultimo anno è saltata alle cronache, portiamo avanti questo discorso che il naloxone comunque è un farmaco salvavita e come tale deve essere considerato al pari del defibrillatore. cerchiamo di abbattere tutti i pregiudizi che c'è non solo da parte della società civile, ma anche dei consumatori stessi rispetto a questo farmaco, e la poca conoscenza. Pensate che il naloxone è un farmaco da sempre da banco in Italia, ma ancora in molte farmacie non si trova. I consumatori spesso ci dicono che non lo vogliono perché se le forze dell'ordine glielo trovano addosso li etichettano immediatamente come consumatori. Nei servizi per le tossicodipendenze spesso non viene distribuito, ci sono pochissimi casi in cui viene distribuito, e sia all'interno della società civile che i consumatori non sanno neanche dell'esistenza di questo farmaco. Accanto alla campagna Mai Senza Naloxone, in cui anche siamo nell'ultima tappa, abbiamo fatto proprio un training di formazione per consumatori pari, soprattutto appartenenti alla fascia di età più giovanile. Stiamo praticamente raccogliendo firme per quella che è la legge del buon samaritano. Come sapete, in Italia ancora l'overdose è un problema di sicurezza. Noi pensiamo che il problema dell'overdose debba essere esclusivamente un problema di salute pubblica. Quindi l'arrivo delle forze dell'ordine insieme al 118 fa sì che in molti casi ci sia stato l'abbandono di persone in overdose per non incorrere in quelli che sono i danni legali. La legge del buon samaritano, già che praticamente è una legge che, statunitense, dice l'overdose non è un problema di ordine pubblico. Le persone che chiamano i soccorsi non devono essere assolutamente interrogate e neanche chieste documenti, ma anzi il problema è che se non lo chiamano entrano nell'omissione di soccorso. Noi chiediamo di firmare su change.org, che trovate alla pagina FB di ITARD, perché la nostra idea è di presentare in Parlamento la legge del buon samaritano. Già l'anno scorso noi, come operatori della riduzione del danno, abbiamo avuto delle grosse criticità sul territorio pratese, in cui lavoriamo dal 2015. Noi nel 2015 infatti siamo arrivati a Prato, in cui c'era una situazione emergenziale, ma la scena di consumo era una scena aperta e non frammentata, che ci ha permesso, insieme anche a molti consumatori con cui avevamo stabilito una relazione di fiducia, di intervenire in tempi rapidissimi su situazioni di sovradosaggio. Noi nei primi mesi a Prato siamo intervenuti su 7 overdose che non sono state letali, e l'unico overdose che è stata letale è stata di una ragazza che si era nascosta in un capannone abbandonato. Dall'anno scorso, da quando il prefetto ha attivato il DASP urbano su Prato, noi come operatori della riduzione del danno siamo da subito emersa una situazione di preoccupazione, perché comunque il consumo si è frammentato. Da un consumo concentrato ed emerso è diventato un consumo sommerso, perché ricordiamoci che queste iniziative per l'ordine pubblico non portano mai a un'interruzione dei consumi, ma solo a una sommersione dei consumi, e quindi per noi diventa un problema di salute pubblica. Tutte quelle che sono le informazioni base su non isolarsi nel momento del consumo, non scappare nel momento del malessere, di chiamare il 118, vengano meno nel momento in cui le persone hanno paura delle conseguenze legali che ci possano essere. Per cui noi ci siamo da un anno a questa parte, noi ci troviamo a lavorare in una situazione estremamente frammentata, in cui i decessi e le overdose sono stati tutti in luoghi isolati e non frequentati, e il rischio che si percepisce da parte dei consumatori è la paura a chiamare i soccorsi nei casi di sovradosaggio o di malore, perché prima dei soccorsi arrivano comunque le forze dell'ordine, perché ancora ad oggi il sovradosaggio da sostanze illegali viene ritenuto un problema di ordine pubblico e non un problema di salute. Da circa una ventina d'anni la CAT si occupa di riduzione del danno e dei rischi a Firenze e dintorni, e le unità di strada e i servizi di bassa soglia, cioè quei servizi che offrono la massima accessibilità perché non richiedono alcun requisito se non l'attenenza al bisogno e quindi al servizio, sono un osservatorio privilegiato per quei fenomeni che sappiamo influire sulla percezione della sicurezza degli abitanti di una città. Tutto quello che riguarda il degrado, il cosiddetto degrado, gli atti vandalici oppure le presenze nelle strade considerate come o percepite come minacciose. E quindi da questo nostro osservatorio abbiamo fatto diverse riflessioni. E la riflessione principale è che le politiche sulla sicurezza, che sono centrate esclusivamente sulla videosorveglianza e sui presidi delle forze dell'ordine, per alcuni fenomeni, e in particolar modo per quanto riguarda lo spaccio e i luoghi del consumo, hanno spesso avuto un effetto esclusivamente migratorio, tra virgolette, cioè l'effetto è quello dello spostamento del fenomeno in altre zone della città, oppure un effetto che chiamiamo paradosso, perché trasforma un fenomeno che è caratterizzato da un'altra concentrazione ma limitato nell'estensione geografica in un fenomeno molto liquido, frammentato e caratterizzato da un'estensione più vasta. Tutti questi due effetti non tendono a risolvere in alcun modo il problema, rendendolo però meno visibile e impattante sull'opinione pubblica. Al contempo la popolazione interessata diventa estremamente difficile da intercettare e rende le azioni a tutela della salute pubblica, come la riduzione del danno e dei rischi, molto più difficile.